Non so se nei prossimi giorni i gruppi consigliavi d'opposizione al Comune di Milano, quelli che notoriamente godono della maggioranza numerica in aula, riusciranno a raccogliere tra i propri riluttanti aderenti la 29esima, 30esima e 31esima firma necessaria per mandare definitivamente a casa il sindaco e la giunta. Sembra di no. A quanto pare nella nostra città la lotta politica segue delle regole tutte sue, una specie di rito ambrosiano, per cui si può benissimo governare con la minoranza dei consiglieri e sostenere il sindaco e la giunta senza smettere di considerarsi all'opposizione. È uno dei numerosi vantaggi di quel sistema maggioritario che grazie alla truffa referendaria del 93 abbiamo entusiasticamente adottato anche a livello locale. Ma non è questo il punto su cui intendo richiamare la vostra attenzione. Come non intendo entrare nel merito delle responsabilità penali e politiche dell'assessore Gandolfi e degli altri amministratori finiti nel mirino della magistratura. Sapete tutti cosa penso della magistratura e in fondo anche gli assessori hanno diritto alla presunzione di innocenza. Forse farebbero meglio a non estrinsecare al telefono l'intenzione di precipitarsi in consiglio per fare cacciare il grano ai colleghi, ma in fondo quella era una conversazione privata. In un paese civile le conversazioni private non dovrebbero essere intercettate con tanta disinvoltura e comunque l'espressione ricalcola dei moduli linguistici largamente diffusi nella cultura lombarda e ben si addice a chi non a caso milita in una Lega Nord. Al nord ci si insegna a parlare come si mangia e fargli cacciare il grano, oltre che un imperativo morale, da noi è un'espressione linguisticamente piuttosto diffusa. Il che non significa naturalmente che si debba permettere a quell'inetto di Formentini di continuare a occupare come se niente fosse la sua poltrona, anche in considerazione, spero ne converrete, del modo con cui ha reagito a questa nuova catastrofe politico-giudiziaria, perché ha reagito il nostro sindaco con una disinvoltura straordinaria. Non ha messo le accuse, ovviamente, ma non le ha neanche negate. Non si è preso il disturbo di difendere la sua collaboratrice, ha detto semplicemente che se ha sbagliato pagherà lei, lui no. Che il suo è un caso isolato, non insoluto, un caso isolato, che la giunta nel complesso va benissimo e che merita tutto il rispetto, dimostrando non soltanto una tendenza a lavarsi le mani che avrebbe lasciato perplesso il compagno Ponzio Pilato, ma un'idea un po' bislacca della collegialità degli organi di governo e soprattutto di essersi dimenticato che nel sistema vigente gli assessori sono delegati del sindaco e le loro defiance, reati o cazzate che siano, non possono che non ricadere su chi li ha scelti e investiti della sua personale autorità. Visto che in 3 anni per vari motivi ha cambiato 8 assessori diversi in altrettanti assessorati, sembra evidente che quanto a capacità di scelta il primo cittadino ha qualche piccolo problema di coordinamento. Naturalmente sappiamo tutti che tutto ciò non ha nulla a che fare col destino della giunta. Il destino di questa giunta dipende dalla volontà dell'opposizione, nelle cui file c'è chi si chiede che fretta ci sia di sciogliere il consiglio. I nemici dei miei nemici sono i miei amici, Formentini è sempre meglio di qualsiasi candidato del polo che presumibilmente trionferebbe alle elezioni anticipate. È un modo strano di considerare la politica. Che la maggioranza dei nostri concittadini non sia esattamente animata da spirito progressista lo sappiamo già. Sono cose che succedono, ma c'è certa gente che pensa che l'unico modo di superare il problema sia quello di aspettare che cambino idea da soli. Di solito per trasformare una minoranza in maggioranza o anche viceversa si raccomandano delle tattiche leggermente più aggressive, non so, si può provare a elaborare una proposta, organizzare una coalizione che abbia un programma, una personalità, un'immagine in grado di convincere un certo numero di elettori a cambiare parere. È faticoso, è difficile, figuriamoci, non è detto che riesca, come no, ma è sempre meglio che stare ad aspettare l'intervento della provvidenza. Ci vuole magari un po' di tempo, ma Abbiamo passato un anno in paziente attesa, continuando a puntellare un governo cittadino che i suoi elettori, evidentemente più accorti degli altri, hanno da tempo piantato in asso e non abbiamo ottenuto dei gran risultati. E aspetta, continuando ad abbinare un sindaco che non sa fare il suo mestiere a un'opposizione che rifiuta di fare il suo, e poi non bisognerà stupirsi se la prossima volta la risposta dell'elettorato sarà ancora più catastrofica dell'ultima.